Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, continuiamo a parlare di un tema che ha tenuto desta l'attenzione di tutti noi in queste ultime settimane, la manovra. La settimana scorsa abbiamo affrontato un tema, quello delle tasse, questa settimana affrontiamo invece un altro argomento che per la verità sarebbe stato anche più popolare, cioè gli interventi che erano stati pensati per ridurre il numero dei comuni. La speranza di eliminare quelli più piccoli mi sembra che sia stata di breve durata e adesso vedremo che cosa succederà, ma insomma anche i piccoli comuni pare che si siano salvati. Oggi i comuni in Italia sono 8.101, di questi ben 5.756 sono sotto i 5.000 abitanti e 4.600 sono sotto i 3.000 abitanti, quindi una polverizzazione dei comuni, ciascuno dei quali però naturalmente ha il proprio sindaco, ai suoi assessori, i propri consiglieri e naturalmente deve garantire dei servizi ai propri cittadini. Non sono troppi 8.101 comuni, soprattutto quando alcuni di questi hanno delle dimensioni che è stato detto sono inferiori a quelle di un condominio, ci sono dei comuni che hanno poco più di 30 abitanti. E risponde a questa domanda, se siano troppi, un libro che è uscito qualche mese fa di un esperto di questo settore, un esperto di amministrazioni locali, anche perché è stato segretario comunale in importanti province italiane, Giuseppe Castronovo. Il libro si intitola L'accorpamento dei piccoli comuni, è pubblicato da Rubbettino, e 178 pagine, 14 euro. L'autore ha una opinione precisa, non soltanto a suo parere i comuni sono troppi, ma non possono nemmeno funzionare proprio perché le dimensioni non consentono loro di garantire quel minimo di servizi per i quali dovrebbero esistere. E in questo modo, conclude Castronovo, si finisce addirittura per violare la Costituzione e i principi di uguaglianza e di buon funzionamento dell'amministrazione. Ma facciamoci spiegare dall'autore le ragioni di questa situazione. Buongiorno a Giuseppe Castronovo. Buongiorno. Allora, dottor Castronovo, questa del decreto del governo Berlusconi, poi più volte modificato, è stata un'ennesima occasione perduta? Io lo definirei come il più efficace spot pubblicitario a favore di coloro che, non volendo cambiare nulla in tema di comuni e in particolare volendo ancora mantenere in vita comuni che, come ho detto anche nel libro, sono comuni polvere. Non ero io veramente, era il professor Giannini il quale definiva polvere quei comuni che in realtà, quando parliamo di comuni di 50-100 abitanti, tutto forse sono tranne che comuni. Il governo purtroppo con il decreto 138 del 13 agosto 2011 forse ha dato un colpo mortale al tentativo di razionalizzare l'attuale assetto ordinamentale dei comuni, avendo scelto il parametro 1000 da applicare sia in pianura sia in montagna, ha di fatto paralizzato la situazione. Del resto, quando parliamo di comuni con 1000 abitanti, con 800 abitanti, parliamo di realtà nelle quali, diciamocelo francamente, la struttura comunale, dove per struttura intendo i dipendenti, si possono contare con le dita di una o due mani. Per cui, in effetti, l'accorpamento dei comuni fino a 1000 abitanti avrebbe comportato risparmi tutto sommato modesti. Ecco, lei però scrive nel libro che questa polverizzazione, per usare il termine sì, che ci ha descritto poco fa, è contrario al principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione. Sì. In che senso? Vede, l'articolo 97 della Costituzione, laddove dice i pubblici uffici sono organizzati in modo da garantire il buon andamento dell'azione amministrativa, è un principio questo che negli anni 50 ancora sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza non era stato compreso in tutte le sue effettive potenzialità. Oggi, quando parliamo di buon andamento, significa parlare di economicità, di efficienza, di efficacia dell'azione amministrativa. Parlare di efficienza e di efficacia significa volere organizzare anche la pubblica amministrazione secondo i criteri che oggi comunemente vengono applicati nelle aziende private. Ci dobbiamo chiedere che senso ha organizzare un'amministrazione con un sindaco, con un consiglio comunale, con una giunta, con un segretario, per realtà comunali con 33 abitanti. Sono realtà che sicuramente potremmo trovare delle soluzioni amministrative diverse al fine di garantire i legittimi diritti costituzionalmente garantiti di queste 33 persone, ma non necessariamente elevando al rango di comune una collettività di così poche persone. E lei, per trovare una soluzione, per andare su questa strada, a un certo punto lancia una proposta, quella di fare la prova del cocomero dell'anguria. Sì. Che cosa vuol dire la prova del cocomero? Dobbiamo partire da qualche passo indietro. Il professor Giannini, già nel 1990, docente universitario, nonché parecchie volte ministro della funzione pubblica, e lui parlava di autonomia vitalità. Lui diceva: un'autonomia, per essere vera, deve essere vitale. E la vitalità di una realtà comunale non può non essere se non in almeno 3-4 mila abitanti. Purtroppo la riforma della legge 142 recepì questo messaggio del grande Giannini solamente demandando alla regione di fare dei programmi, ma i comuni assolutamente, poiché era su base volontaria, di accorpamenti a oggi non ne abbiamo visto neanche uno. Anzi, nella provincia di Milano sappiamo di una realtà comunale abbastanza grossa come Bollate, che addirittura si è divisa, e sappiamo che da un punto di vista economico-finanziario è stato un mezzo fallimento. E secondo lei perché non si fa nulla? Perché il potere politico alla fine della fiera mantiene questo sistema polverizzato? Ma l'attuale disciplina elettorale in materia comunale e provinciale ha una caratteristica: non prevede nessuna incompatibilità o ineleggibilità tra le cariche di amministratore comunale e la carica di amministratore provinciale. Per cui non c'è consiglio provinciale in Italia che non annoveri tra i suoi componenti sindaci, assessori e consiglieri. Addirittura abbiamo tantissimi sindaci di comuni che sono anche assessori o addirittura presidente di provincia. Quindi il comune, piccolo per quanto sia, è un terreno di coltura per le forze politiche, è un trampolino di lancio. Però oggi il problema, mi permetta, non è tanto l'istituzione comune. Quello che dovremmo avere come obiettivo finale è il cittadino, perché la novità della Costituzione del 48 è questa: mettere al primo posto il cittadino. Per cui dobbiamo chiederci questa domanda: il comune riesce ad assolvere i suoi compiti di promozione sociale della collettività? Laddove questo assolvimento non c'è, perché obiettivamente 33 abitanti, una struttura non può esserci per assolvere a questi compiti, forse dobbiamo pensare ad un'altra soluzione. Bene, grazie a Giuseppe Castronovo. Abbiamo capito, anche quando parlava di incompatibilità che non esistono, che non a caso i comuni rimangono e anche le province, tutto si fa tranne che abolirle. Grazie Giuseppe Castronovo, autore dell'accorpamento dei piccoli comuni. Dal comune passiamo a un'altra istituzione che non è certo a rischio di accorpamento, anche perché ce n'è una sola: la Presidenza della Repubblica, che è protagonista del libro di Giuseppe Mammarella, che è uno storico famoso, e Paolo Cacace, il quirinalista del Messaggero, intitolato appunto Il Quirinale, storia politica istituzionale, da De Nicola Napolitano, la terza, 328 pagine, 24 euro. Questa è una storia dei presidenti della Repubblica, il cui ruolo è molto cambiato tra la prima e la seconda Repubblica. Nella prima fase della storia della Repubblica, infatti, il presidente della Repubblica aveva un aspetto quasi notarile, e negli ultimi anni, invece, notano gli autori, il capo dello Stato è balzato, come scrivono essi stessi, al centro del processo politico, quale deus ex machina di un sistema che si è sensibilmente modificato, al di là del dettato costituzionale, per volontà di nuovi attori e di nuove prassi. E appunto, ripercorrendo quindi la storia di queste presidenze, si ripercorre la storia dell'Italia repubblicana, una storia che naturalmente è molto cambiata. Pensate per esempio che il primo presidente della Repubblica, che fu Enrico De Nicola, come prima decisione assunse quella di rinunciare alla lista civile, lo stipendio in pratica, 12 milioni e mezzo moltiplicato per 40, indice di svalutazione, anche se De Nicola chiese che questa cifra venisse inserita nel bilancio dello Stato. Per parte sua, De Nicola scuola dovette dare fondo ai risparmi perché i proventi dello studio forense risentivano dell'assenza del titolare impegnato negli affari dello Stato. E poi dopo De Nicola troviamo tutti gli altri presidenti della Repubblica, troviamo la storia di ogni singolo personaggio, le vicende spesso contorte della loro elezione, lo stile di ogni presidenza. E naturalmente forse l'attenzione dei lettori corre agli ultimi presidenti anche per il diverso ruolo che questi ultimi hanno svolto. Quindi Cossiga, il demolitore nell'ora della grande svolta, come viene definito, Scalfaro, il traghettatore tra due repubbliche, Ciampi, il nuovo patriottismo europeo, Napolitano, garante di stabilità in un paese da riformare. In particolare i due autori in queste ultime pagine ricordano una caratteristica nuova dei presidenti della Repubblica, quello di essere diventati dei grandi esternatori. Scrivono infatti i due autori, dalla presidenza Pertini in poi c'è stata un'escalation di esternazioni in sintonia con il crescente ruolo dell'informazione. Un'escalation che ha determinato un vero e proprio indirizzo politico presidenziale con una forte capacità di influenza presso gli altri poteri istituzionali e di penetrazione presso l'opinione pubblica. E qui gli autori citano Napolitano da essi stessi sentito, dice il presidente, quando c'è una situazione di forte conflitto politico la funzione del capo dello Stato diventa di più una funzione moderatrice di richiamo a quel che unisce. In questo senso la mia funzione è diversa rispetto a quella svolta da alcuni miei predecessori. Quindi di nuovo una storia del cambiamento della politica in questa storia del Quirinale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di narrativa, in particolare di un genere specifico, quello dei racconti e degli scritti brevi, e comincio con un scrittore classico inglese del Novecento, Graham Greene, uno scrittore alla cui fama letteraria forse ha fatto velo il grandissimo successo popolare di alcuni suoi romanzi, per esempio Il nostro agente all'Havana, molti dei quali divennero anche dei film famosi. Adesso escono, tradotti tutti per la prima volta in italiano, i suoi racconti che Greene scrisse lungo tutta la sua carriera fino a pochi anni prima della scomparsa che avvenne nel 1991. E ce n'è addirittura uno drammaticamente profetico e attuale alla luce del decennale che ci apprestiamo a ricordare dell'attentato alle Torri Gemelle, che racconta appunto di un terribile attentato terroristico nel quale sarebbe coinvolto anche, senti senti, Gheddafi. Il libro si intitola Tutti i racconti, è pubblicato da Mondadori, 762 pagine, 19 euro ed è tradotto da Piero Joyet, May, Liz Riesler Stoneman e Gianna Ottolenghi Gallucci. Ci sono quindi, come dicevo, anche dei testi finora inediti in Italia, tra cui forse l'ultimo scritto, uno di due racconti per il cinema che Greene lasciò incompleto e che divenne poi un film diretto da Mario Soldati, che dello scrittore inglese era molto amico e che lo aveva spinto lui stesso a scrivere questo testo. Ritroviamo in questa raccolta molti dei temi e delle caratteristiche di Greene che dimostra, come scrive Paolo Bertinetti nell'introduzione, quanto l'autore inglese sappia raccontare e che abilissimo inventore di trame sia. C'è anche il segno della sua cultura cattolica che ritorna spesso come spunto anche ironico, per esempio nel racconto in cui si parla di un imprenditore che stipenda una segretaria per lucrare al suo posto le indulgenze, o assume dei toni quasi metafisici e filosofici come nel racconto Un barlume di spiegazione, nel quale un agnostico e un cattolico, occasionali compagni di viaggio in treno, discutono sul senso di Dio. Ecco alcune righe da questo racconto. Ben presto mi resi conto di parlare con un cattolico romano, con qualcuno che credeva, com'è che dicono loro, in una divinità onnipotente e onnisciente, mentre io sono quello che nel linguaggio comune si definisce un agnostico. L'intuizione mi dice che un Dio esiste, ma non mi fido, fondata come può essere su esperienze e bisogni infantili, e di tanto in tanto mi sorprendo a credere per via delle straordinarie coincidenze che costellano il nostro percorso, come trappole per leopardi nella giungla. Intellettualmente, però, mi ribello di fronte all'idea di un Dio che può abbandonare così le sue creature alle atrocità del libero arbitrio. Mi ritrovai a esprimere questo punto di vista al mio compagno, che ascoltava quietamente e con rispetto. Non fece alcun tentativo di interrompermi. Non mostrò traccia dell'insofferenza o dell'arroganza intellettuale che mi sarei aspettato da un cattolico. Quando, oltrepassando una stazione, le luci gli lampeggiarono per un istante sul viso, sfuggito fino a quel momento al fascio luminoso dell'unica lampada funzionante nello scompartimento, mi parve all'improvviso di intravedere... che cosa? Smisi di parlare, tanto forte era stata l'impressione. Guardai il mio compagno di viaggio di fronte a me nello scompartimento, ma il suo viso era già tornato nell'ombra. Dissi fievolmente: «Se pensa a ciò che Dio, posto che un Dio esista, consente, non si tratta solo delle sofferenze fisiche, pensi alla corruzione, anche dei bambini». Ribatté: «Il nostro sguardo è così limitato», e io rimasi deluso dalla convenzionalità della sua risposta. Molto probabilmente si rese conto della mia insoddisfazione. Era come se i nostri pensieri si fossero avvicinati per scaldarsi, proprio come noi, perché continuò: «Certo, a questo non c'è risposta. Cogliamo barlumi». Un altro narratore di lingua inglese, ma questo americano e contemporaneo, è Ethan Kenin, che è un medico considerato tuttavia tra i migliori scrittori di novelle degli Stati Uniti. Ponte alle Grazie ne pubblica L'imperatore dell'aria, una raccolta di 9 racconti tradotti da Anna Rosa Miele, 188 pagine, 16,80 €. Come ha scritto il New York Times, la professione medica sembra orientare l'autore a presentare temi e soggetti che spesso hanno a che fare con le grandi questioni della vita, la malattia, l'imperfezione, la giovinezza, la vecchiaia, l'amore. Non sono tuttavia dei racconti cupi, anzi sono dei tratti di vita ordinaria con le debolezze, le idiosincrasie e le idiosincrasie della gente comune che spesso assumono i tratti di una guerra per l'affermazione di valori universali. Per esempio, il protagonista del primo racconto, quello che dà il titolo alla raccolta, è un professore di astronomia che vuole difendere a tutti i costi i propri pochi alberi colpiti da un'invasione di insetti che un vicino di casa antipatico e rozzo vorrebbe a tutti i costi abbattere per mettere in sicurezza i propri alberi. Oppure c'è Charlie, un insegnante di educazione fisica di Hollywood, ossessionato dalla moglie che vorrebbe a tutti i costi cambiare casa, ma che ha verso la vita un approccio molto più tranquillo, che probabilmente farà sfumare anche i sogni di Jody, della moglie. Sentiamo alcune righe tratte da questa conversazione con una lezione che dà Charlie a sua moglie. «È una questione importante», dissi, bevendo un sorso di birra per smorzare l'effetto delle mie parole. «Troppi soldi fanno perdere di vista le cose», aggiunsi. Poi smisi di parlare, ma avrei potuto dire di più. «Basta guardarsi intorno. A Beverly Hills c'è un ristorante dove un piatto di carne di vitello costa $30. Non mi importa di essere solo un vice allenatore in un liceo, anche se poi senti che un tizio qualsiasi guadagna centinaia di dollari con un camion attrezzato a palestra che fa servizio a domicilio. Sul camion ha gli attrezzi della Nautilus e un impianto stereo che è la fine del mondo. Con questo sistema tiene in forma i divi, Kirk Douglas e i dirigenti dell'industria cinematografica. Il tizio nel camion non vive a Hollywood, probabilmente vive sulla spiaggia, a Santa Monica o Malibu. Ma Hollywood è accettabile se non la si paragona all'idea che uno se n'è fatta. Di tanto in tanto, a un party qualcuno che viene da fuori mi chiede se ho come alunni i figli dei divi del cinema. Talvolta Jody risponde di sì, ma che a rivelarne i nomi si mancherebbe di riservatezza. In altre occasioni spiego che oggigiorno i divi del cinema non vivono a Hollywood e che molti di loro non ci lavorano neanche, che Hollywood è fatta solo di autolavaggi e trattorie e che il teatro con all'esterno le impronte degli attori non è più neanche un teatro. Il giovedì sera, lì intorno, i ragazzi fanno le corse con le macchine truccate. Comunque, si può dire che Hollywood non è male. C'è il sole, le strade sono ampie e si ha tutto a portata di mano. Un'insolita raccolta di scritti brevi è quella contenuta nel libro Viaggio in Italia, pubblicato da Rizzoli, 222 pagine, €9,90. Troviamo qui alcuni dei maggiori scrittori italiani del Novecento che furono chiamati a scrivere per Gatto Selvaggio, che era la rivista, l'house organ, come si dice oggi, dell'ENI. Il nome della testata era stata decisa da Enrico Mattei. La rivista uscì tra il 1955 e il 1964 e aveva ospitato, oltre a informazioni aziendali, appunto gli scritti di alcuni dei letterati principali di quegli anni. Come nota Paolo Di Stefano nella prefazione al libro, quindi questa rivista si collocava nel tentativo che venne perseguito intorno agli anni 60, fine primi degli anni 70, di coniugare la cultura letteraria, la cultura scientifica, l'industria e l'arte. La rivista era diretta da un grande poeta, Artiglio Bertolucci, che la diresse fino alla fine, e appunto Bertolucci diede spazio a tantissimi letterati dell'epoca. Troviamo infatti qui Anna Banti, Giorgio Bassani, Giuseppe Berto, Alberto Bevilacqua, Giorgio Caproni, Carlo Cassola, Giovanni Comisso, Raul Maria De Angelis, Giuseppe Dessì, Carlo Emilio Gabda, Alfonso Gatto, Natalia Ginsburg, Raffaele La Capria, Gianna Manzini, Goffredo Parise, Leonardo Sciascia e Mario Soldati, il meglio di quegli anni. Ci sono racconti brevi che danno il quadro di un'Italia che voleva cambiare. Giorgio Bassani, per esempio, racconta del viaggio da Ferrara a Roma di una coppia che cena in un ristorante umbro dominato da un nuovo attrezzo, la televisione. Ci sono anche le testimonianze di molte illusioni, e come dimostrano per esempio queste righe dell'ultimo racconto, che è di Leonardo Sciascia. Spinto a un imprevedibile ottimismo dall'apertura degli impianti petroliferi di Gela, ottimismo che purtroppo non ha vinto la scommessa del tempo. Gela diventava la terra del petrolio, e non che subito, appena dalla piana del Signore venne fuori il primo getto, la gente ne avesse beneficio, sicurezza e speranza. Il paese sembrò anzi farsi di colpo più povero. Saliva il commercio, ma le cose di cui i negozi si infittivano sembravano respingere la vita della popolazione in una zona ancora più oscura e lontana, e c'era diffidenza. Stranieri e uomini del nord ritenevano forse che la miseria fosse una vocazione più che una condizione, e dalla povertà i gelesi guardavano quegli uomini ben vestiti e ben rasati, le loro famiglie, i loro bambini ben nutriti, come i cursori di una nuova e diversa depredazione lanciata su una terra che già tante ne aveva subite nei secoli. Di questa diffidenza oggi si può dire che non ne sopravviva traccia, anche se a svicolare dalle strade principali ancora si scoprono nei catoi forme di vita primitiva. Ma molta gente ha già lasciato i catoi. L'aumento dei redditi è continuo e sicuro, più vasto l'accesso ai beni di consumo ed uso. Nel paese è sempre un'aria di festa, che era in certi paesi zolfatari, nei tempi d'oro delle zolfare, il sabato sera, ma senza quella componente di disperazione ed angoscia che si intravedeva nel riposo dell'uomo della zolfara, senza quel baluginare di morte che era nell'ebbrezza del vino. Un particolare viaggio in Italia è quello di Henri Calais, uno dei più atipici scrittori francesi del Novecento, vissuto tra il 1904 e il 1956, il cui vero nome era Raymond Théodore Barthelmès. Calais era appassionato di viaggi condotti con lo spirito del flâneur, del perdigiorno, e uno di questi viaggi lo portò anche in Italia. Ne uscì questo librettino del 1950, L'Italia alla pigra, cronache di un viaggiatore indolente, che ripropone Mesogea con la traduzione alla cura di René Corona, 114 pagine, 14,50 euro. Nel libro Calais appunto tiene fede al suo spirito ironico e dissacratore. Lui stesso era un personaggio un po' strambo, era un uomo avventuroso dai mille mestieri, un po' mariolo, era addirittura a un certo punto fuggito con la cassa dell'azienda di cui era capo contabile, e poi era diventato giornalista nel giornale di Albert Camus. Il libro è dominato dall'idea che in fondo viaggiare sia inutile. Infatti scrive l'autore: ciò che rende i viaggi pressappoco inutili è che ci spostiamo sempre con noi stessi, con gli stessi pensieri, le stesse preoccupazioni, la stessa mentalità, gli stessi giudizi sulle cose e sulla gente. In qualunque posto ci si trovi, non siamo mai da soli. E ne escono da queste premesse delle osservazioni curiose e spiazzanti. Per esempio, a Roma la cosa che più affascina il viaggiatore e scrittore non sono i grandi monumenti, ma i caffè. Paragonati ad essi, scrive, i nostri, quelli francesi, hanno un'aria anonima. Poi Calais individua anche alcuni vizi nazionali. Per esempio, a un certo punto descrive un viaggio da Venezia a Roma, un viaggio notturno assieme a un compagno. I due non trovano posto, trovano soltanto un lussuoso scompartimento vuoto, tutto pieno di velluti rossi. I due entrano e trovano attaccato un divieto di occupare quei posti che sono riservati ai signori senatori deputati. Dopo un po', naturalmente, viene il controllore, anzi vengono addirittura due celerini, come scrive lui stesso. I celerini ci chiedono se eravamo deputati, ritenendo che eravamo troppo giovani per essere senatori. Il mio amico, scrive Calais, gli ha risposto con autorità, benché in calzini, che eravamo due giornalisti di ritorno da un congresso internazionale, e con questo lascia passare. I due riescono a passare la notte, perché, conclude Calais, in Italia i giornalisti sono considerati moltissimo. Chissà, forse da allora a oggi le cose sono cambiate. Il confettino. Concludiamo naturalmente con un racconto di un'autrice russa, Lyudmila Petruseskaya, La Rosa, illustrata da Claudio Palmarucci e tradotto da Raffaella Belletti e pubblicata da Orecchio Acerbo, 13,50 euro. Questa novella racconta la storia insolita e poetica di un vecchio che profuma di rosa, appunto, un destino che può avere anche dei risvolti buffi e malinconici, come scopriremo dalla storia. Con questo ringrazio Guido Scotti redazione e Valeria Bernardi regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.